Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar! Eccoci qua! È venerdì! E quindi... sciopero! Sciopero dei trasporti, naturalmente. Sciopero, venerdì gnocchi. No, venerdì sciopero. No, venerdì sciopero. Ormai gnocchi no, ma lo sciopero sì. Sì. Non solo, noi abbiamo la consuetudine in moltissime grandi città italiane di avere i venerdì gli scioperi di trasporti pubblici locali. Questa volta è nazionale. Ma chissà, è un caso secondo te, è vero che sia vicino alla fine settimana? I sindacati dicono sempre che è un caso. È un caso. Sai com'è, a furia di vedere i casi, molti indizi fanno una prova, per così dire. Ma infatti, prima dei santi, chissà come starà il nostro amico del grande raccordo anulare. Il più grande social network del mondo, il grande raccordo anulare. Essere un social network un po' arrabbiato stamattina, per così dire. Tranquillizziamoli però qua, vedi, santi che intervengono. Vedi, chi è quello che ha potuto, chiediamolo, anzi vediamo ai nostri ascoltatori anche cosa ne pensa. Come mai il commissario Tronca ha detto no, scusate, questa volta me lo fate di 4 ore in meno, perché lui ha i poteri per dire me lo fate di 4 ore in meno. Solo a Roma, e lo sciopero è questa mattina, credo dalle 8.30 alle 12.30. Cari ascoltatori, diteci un po' voi, dopo tutti questi venerdì e tutti questi anni di sciopero del trasporto pubblico locale, ma voi che fareste? In alcuni paesi, per esempio, nel trasporto pubblico locale non si può scioperare. Ma io ho detto, se sarò sindaco di Roma, perché mi candido, scherzo, ovviamente, no, scherzo. Meglio che precisiamo. Abolirò lo sciopero nei trasporti pubblici. No, ma comunque la questione è seria. E chiamateci anche con rispetto per i diritti dei lavoratori. Noi li rispettiamo. Chiamateci all'800 24 0024. Se volete riversare anche solo la vostra rabbia perché siete incolonnati, fatelo. Se però invece avete delle proposte concrete su come gestire quella che è lo strumento dello sciopero, che c'è in tutto il mondo quasi, ditecele. L'unico segmento dello sciopero che è rientrato è quello dei tassisti. Sì. Un abbraccio ai nostri amici tassisti, e per una volta dirò che io mi congratulo con loro. Sai perché? Perché ieri c'è stato il braccio di ferro raccontato dai giornali, è stato in particolare la stampa ieri ad anticiparlo tutto il giorno. Con Uber. Però hanno inchiodato il governo, non con Uber, con il governo, dicendo voi dovete levare la parte residua delle liberalizzazioni del trasporto nel disegno di legge concorrenza, che in Parlamento da un anno oramai ne restano un po'. Però perché è una carcassa. Ti congratuli con loro? Oggi il Fatto Quotidiano dice la solita lobby degli amici tassisti. Di fatto è andato così. Però ti spiego perché congratulo. Perché loro ogni volta riescono a fare, a dare evidenza pubblica, a manifestare pubblicamente il fatto che la politica non riesce su questo ad avere un'idea che stia in piedi. Cioè, se la politica vuole liberalizzare, io sono tra quelli, e deve aprire la concorrenza, piattaforme digitali, allora deve anche dire, cari tassisti e cari conduttori con licenza, gli NCC, io devo regolare la transizione e tutelare chi come voi ha speso fior di soldi per acquistare una bella licenzona, certo. Perché tu lo sai che il pubblico fa finta di darle gratis, ma in realtà poi sul mercato secondario costano un pacco di quattrini. Allora, tutelare significa da quanti anni ce l'hai, facciamo un conto di quanto vale, non hai ancora ammortato con i tuoi soldi e te lo riconosco. Sì, per permettere, cioè, a coloro una roba che hanno regolata, speso, capisci? Non è che chi prima ha, per le vecchie regole ha speso, dici, beh, mi dispiace, ti trovi da un giorno all'altro un po'. Siccome la politica non è capace, io dico per una volta grazie ai tassisti, perché voi sottolineate che questi non sono capaci. Ma scusa, quindi cosa dovrebbe fare? Il governo dovrebbe mettersi lì e dire voi tassisti che avete, fatevi sapere quanto avete speso di licenza e facciamo un conto cosa di vuol dire? Significa che come ogni investimento c'è quello che si chiama tecnicamente l'ammortamento, no, in quanti anni lo ripaghi, ho no? Ho capito, ma cosa dovrebbe fare? Vi ridiamo indietro dei soldi? Gli devi riconoscere una quota di ammortamento che la realizzi attraverso deduzioni fiscali negli anni a venire e così via. Però chi non è capace di mettere insieme il vecchio e la transizione verso il nuovo, rinuncia al nuovo. E noi lo capiamo ogni volta, perché i tassisti vanno lì e dicono, scusate, voi oltre a aprire al nuovo, per noi cosa dite? E allora la politica dice, ah, non ci avevamo pensato, marcia indietro. Ecco, loro sottolineano con la loro durezza, è chiaro che loro tutelano il loro monopolio attuale in quel segmento, però rendono evidente che la politica non sa pensare al nuovo. Comunque non c'è ancora detti santi. Prima però, caro Oscar, vedi, un ascoltatore ci scrive via WhatsApp: ma chi è quel cretino che paga ancora il sindacato? Mio genero, mio genero. Io avrei detto più mio suocero, perché sembra una cosa un po' più da persone, di persone di una certa età. Ma no, poi non c'è, non c'è da essere cretini, insomma, adesso non esageriamo. Però no, non però, c'è da essere cretini, mio genero. C'è da ricordare anche che noi abbiamo un meccanismo di quote automatiche pluriennali trattenute dal posto di lavoro per i sindacati, a differenza di altri paesi in cui l'iscrizione è A, ogni volta annuale, B, diretta nel rapporto col sindacato senza trattenute. Anche questa cosa aiuta a capire. Però i santi, santi. Oggi è San Cirillo. San Cirillo. Uno dei tanti re, sente Edoardo II invece re d'Inghilterra, martire. Braulio, che non è il nome di un famoso amaro, ma c'è anche un santo. Cioè c'è l'amaro, però c'è anche Braulio, sì, vescovo Braulio. Braulio. E vi garantisco che non c'è l'amaro per via del santo. Cioè non è che fosse così pesante sto vescovo che poi alla fine ce l'ho fatto l'amaro. Non è vero. No, poi pesante, però... esatto, al limite fa digerire. Quindi vabbè, insomma, stiamo facendo un po' di pubblicità a santo. Ma vabbè, al esattamente, al santo, perché noi non facciamo pubblicità, nemmeno a superalcolici. Poi ci sono due vescovi di Lucca, Frediano in particolare e Anselmo, e però oggi, insomma, oggi, siccome ieri abbiamo diviso, perché ricordando che era l'anniversario del Regno d'Italia, che però era l'anniversario dell'Italia unita, anche se ancora senza Roma, però molti poi mi hanno scritto al pomeriggio: no, re no, figuratevi, io sono repubblicano. Allora, almeno oggi, però speriamo che tutti siano d'accordo, e perché oggi nel 1848 cominciavano le cinque giornate di Milano, almeno quello voglio sperare. Ecco. Su questo sì. E nel 1945 nasceva Bobby Solo. Bobby Solo! Per unire sacro e profano. Bobby Solo. Senti, intanto ci scrive un ascoltatore: caro Oscar, nella nostra azienda un impiegato beccato in palestra in orario di turno, ora è rappresentante sindacale, dobbiamo sottoporre a lui i turni degli impiegati. E vabbè. Certo, ci scrivono sempre quelli arrabbiati con i sindacati, ma chiamateci un bel sindacalista che difenda, noi spesso li chiamiamo ospiti. Però, ma chiamateci momento, anche momento, a difendere. Un momento, una cosa non ho capito. Parlare con i sindacati, i lavoratori dei turni, è giusto. Non capisco il nesso con chi invece, se era in orario di lavoro fuori, va licenziato. Punto. Evidentemente non sono riusciti per cose che capitano in Italia a licenziarlo, a dimostrarlo. Però e voglio dire che ci siano disonesti non significa che uno dice i turni e non si confronta. Si confronta, poi ovviamente deciderà, però è giusto, perché i turni sono una cosa fondamentale della produttività. Come no. Comunque ci chiama Marco da Caserta. Marco, buongiorno. Pronto? Sì, eccoci Marco. Buongiorno, eccoci qua. Allora, salve, io sono di Caserta ma lavoro a Roma. Stamattina non sono potuto andare a lavorare perché praticamente c'era lo sciopero e quindi sono dovuto stare a casa. Perché andare da Caserta, ha preso le ferie? Per forza, come dovevo fare? Da Caserta potevo andare a Roma con la macchina, io faccio l'insegnante. Cioè praticamente la giornata di lavoro mi sarebbe stata, chi dovevo chiedere poi il rimborso? Cioè è incredibile, perché a Roma succede sempre di questo, ma non è solamente la prima volta. No, io... certo. Cioè, ma Marco, però ci dica una cosa, ci dica, sia sincero, non si è messo in malattia, ha chiesto le ho chiesto la giornata di ferie, no, nonostante sia uno statale non faccia questa illusione, non lo dico da statale, cioè nel senso che è chiaro che uno dice: ma perché io per lo sciopero mi devo spendere una giornata di ferie? Quindi la tentazione a dire: ma io voglio sottolineare, male, cari dipendenti e sindacalisti del trasporto pubblico, cosa che peraltro voi sapete, però questa telefonata io ringrazio molto Marco è un insegnante. Tutti quanti noi sappiamo, come voi del trasporto pubblico, che non copriamo i soldi né gli insegnanti né chi lavora nel trasporto pubblico. Però, come voi, no? Secondo, lui sta a Caserta e lavora, va e viene a Roma tutti i giorni, non esattamente dietro l'angolo. E se è dovuto prendere terzo, la giornata ecco di ferie, chi paga, ecco chi paga il costo di queste raffiche continue di sciopero del trasporto pubblico. Cittadini così, con queste caratteristiche. E allievi e i suoi tutti quanti. Anche alla scuola. Marco, dove insegna? Elementari, liceo? Scuola elementare. Quindi oggi i suoi bambini, le sue bambine, non hanno neanche il maestro. Purtroppo a scuola funziona così, perché per un giorno uno non è che chiama la supplente, doveva essere qualche altra collega che doveva fare da scuola tra due classi. Chiaro. Immagini un poco che casino che succederà pure. Cioè, purtroppo, essendo pure un insegnante di sostegno, cioè il mio alunno deve essere seguito in maniera un pochettino più Lei che proposte, oltretutto essendo anche uno statale, che proposte avrebbe in mente? Guardi, io credo che lo sciopero è un diritto. Naturalmente non si può eliminare. Al massimo, diciamo che in un anno uno può fare uno sciopero, al secondo sciopero fallo durante il tuo giorno di ferie, non lo so. Cioè praticamente lo sciopero lo puoi fare allora in modo da non bloccare, non è uno sciopero. Fuori dagli orari di lavoro, perché altrimenti così diventa ingestibile. Marco, il principio dello sciopero è che il lavoratore vuole mettere in difficoltà, creare un disagio, mette in difficoltà l'azienda per una pressione sindacale. Se no, se uno fa uno sciopero che non si ripercuote in nessun modo, neanche sull'azienda come disagio, però nei servizi pubblici la ripercussione è sui clienti più che sull'azienda. Ma non solo sui clienti, è su Marco, è sui suoi allievi, quindi, tutto a catena. Altrimenti non sarebbe servizio pubblico. Per questo in molti paesi esistono limitazioni più ferree che in Italia. Ce ne sono anche alcuni altri in cui invece gli scioperi si possono praticare con più libertà anche nei trasporti pubblici, perché per esempio in Germania i blocchi totali del trasporto ferroviario, che capitano una volta ogni X anni, ma sono capitati l'anno scorso, da noi quelli sono impensabili. Però ci sono paesi in cui interi pezzi di settori dei servizi pubblici semplicemente non è possibile l'astensione con interruzione del servizio. Però vedi, allora, tanti messaggi. Per esempio, sono un sindacalista, vi ascolto tutte le mattine, vado a lavorare, mi faccio un mazzo così, smettetela di avercela con i sindacati, che il 99% di noi fa questo lavoro con grande passione, mi offendete. Ma tanto, caro ascoltatore, non prenderla come una cosa personale, non offendiamo nessuno, tantomeno te, non ti sei firmato, non sappiamo il nome, ma... c'è chi dice, vedi, Marco si trasferisca a Roma. Capisci? No, poi aggiungiamo, c'è un'altra questione: molti scioperi non coordinazionali dei trasporti pubblici locali nascono dal fatto che noi non riusciamo ad affermare criteri di rappresentanza minimi, criteri di procedure minime per la proclamazione con consensi ex ante degli scioperi, tutte le siglette dei sindacatini contro i confederali. Moltissimi degli scioperi a Roma, per esempio, il trasporto pubblico locale, vengono da questa roba qua. Ermanno dice: sciopero la giapponese, lutto, cioè la fascia nera al braccio e lavorare. Però molti dicono: ma Marco, uno passa per autoritario a dirlo, però. Ma guarda che, un altro: in Giappone si sciopera mettendo la fascia al braccio andando a lavorare. E molti dicono: a Marco da Caserta dovrebbe trasferirsi a Roma. Vabbè, sono anche scelte, certo, però a questo punto si dice: però le scelte di Marco perché devono ripercuotersi? Ma soprattutto, perdonate, perché dobbiamo far discendere dalla difesa assoluta del diritto di bloccare quasi tutti i venerdì il trasporto pubblico al fatto che Marco, allora a questo punto devi stare anche dietro l'angolo, cioè capite? Comunque, che non sentiamo, c'è una... sentiamo Giulio da Roma. Giulio è contento che ha troncato lo sciopero. Giulio, buongiorno. Allora, buongiorno. No, in realtà il mio intervento era riguardante la questione taxi. Sì. Allora, lei è interessato alla categoria? Sono, diciamo, trasversalmente interessato, nel senso che la disamina che ha fatto il dottor Giannino è perfetta. Anche questo governo ha dimostrato tutta la debolezza rispetto a una lobby estremamente forte. Però la cosa che a me scoccia è che comunque non si fa mai notare che tra queste due forze, tra queste due lobby, tra i taxi e Uber, c'è una forza importante da un punto di vista economica, che è il noleggio con conducente. Che conta... Lei è un noleggiatore con conducente, ce lo dica, non è grave. Sì, no, l'ho citato prima, però. Ci siete anche voi. Sì, però dire che ci siamo anche noi e poi parlare della forza dei taxi e contro Uber è un po' minimale come ci esposizione. Siete anche voi, e voi però mi scusi, se mi vuole far esporre la questione è questa. Allora, il noleggio con conducente conta 80.000 imprese in Italia, con un indotto lavorativo 3-4 volte tanto, perché noi abbiamo il cumulo delle autorizzazioni e quindi possiamo avere i dipendenti. Nel 2009 è stata modificata la nostra legge nazionale da una nel milleproroghe del 2009 da un'azione piratesca fatta tra Tassì, Alemanno e Gasparri, dove modificando questa nostra legge purtroppo ha vincolato il noleggio conducente. Va bene, Giulio, a non però crescere. No, mi scusi. No, ma mi scusi lei, Giulio. Purtroppo sì. In radio ci vuole la sintesi, non è un convegno. In genere si parla 40-50 secondi, è già due minuti che sta parlando. Ci fa o ci dice dopo aver fatto questa storia cosa da NCC chiede lei e come rispondente della categoria? Allora, noi le spiego, noi siamo in mezzo a queste due forze, sì. Abbiamo proclamato uno sciopero anche noi e probabilmente se il governo non abroga una legge che non è entrata mai in vigore, ma che comunque sta creando dei danni notevolissimi alla categoria, noi per Pasqua, quindi per il weekend di Pasqua, bloccheremo le autostrade. Questo è uscito anche sui comunicati stampa. Ci siamo arrivati, Giulio. La notizia è questa. Per rasserenare tutti i nostri ascoltatori a Pasqua. Tra l'altro, giustamente ci fa notare che il prefetto di Roma è Gabrielli. Sì, non è che il prefetto di Roma è Tronca, insieme a Tronca sullo sciopero. Ma Giulio ci dice che bloccheranno le autostrade. Va bene, ci ha dato questa notizia. Simonetta invece ci chiama da Genova. Ah, state con noi, tra poco avremo Roberto Giachetti, dopo Simonetta, dopo la pubblicità. Simonetta, buongiorno. Buongiorno. Allora, io chiamo perché mi stupisco che tanti lavoratori se la prendano col sindacato, perché io sono stata sindacalista. Il sindacato ha un ruolo importante e bene o male, perché poi ha sicuramente anche le sue colpe, ha contribuito a difendere e a portare i diritti dei lavoratori in questo paese. E se non si capisce questo e non si capisce che tutte le categorie sono coinvolte, siamo veramente messi male. Però Simonetta, scusi, quando l'anno scorso è capitato, lo sa, no? Il trasporto pubblico locale, Genova è rimasta totalmente paralizzata. No? Ecco, è rimasta totalmente paralizzata perché persino di fronte alle misure della giunta di sinistra, Stacoldore, eccetera, il sindacato difende un'impostazione dell'organizzazione delle corse, eccetera, eccetera, che non è sostenibile. E io questo dico: qui non si tratta di generalizzare, dire il sindacato è sbagliato come rappresentanza, tutti lo difendiamo. Se c'è la paralisi a Napoli del trasporto pubblico locale perché fanno lo sciopero, perché l'azienda che ha il 47% dei portoghesi chiede di passare agli amministrativi a fare i controlli dei biglietti, sacrosanto, e lì dicono noi non lavoriamo per questo, il sindacato difende incrostazioni di parassitismo. Quindi io non discuto il sindacato, io discuto molte volte quello che fa, cioè difendere impostazioni che non stanno in piedi per i soldi organizzativamente, e spesso non solo sono inefficienti, sono anche conniventi. Le piccole sigle, per esempio, che bloccano la metropolitana a Roma, la bloccano per un diritto a fare prestazioni in straordinario, a tenere basso l'orario di lavoro per avere più soldi sullo straordinario rispetto agli altri dipendenti pubblici di Roma. Dove sta la giustizia in questo? Secondo me non c'è, ecco. In ogni caso, insomma, come vedete, il tema è molto dibattuto. Continuate a chiamarci all'800 24 00 24, anche il nostro noleggiatore con conducente che dice bloccheremo l'autostrada ha creato un po' un putiferio. I nostri ascoltatori, arrestateli, no, fanno bene, rivoluzione, vabbè. Comunque occhio al weekend, occhio di Pasqua. Al weekend di Pasqua. Comunque Roberto Giachetti è con noi tra poco dopo la pubblicità, candidato sindaco a Roma per il PD, tra poco. Siamo qua alle 8:41 minuti, caro Oscar. Eccoci qua. E con noi c'è Roberto Giachetti, che è il candidato sindaco per il centrosinistra a Roma. Buongiorno Giachetti e bentrovato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Senta, adesso parliamo un po' di programmi, perché però prima le facciamo una domanda. Ma lei noi lo sappiamo che lei vorrebbe parlare dei litigi del suo partito, ma noi un po' meno. No, scherzo ovviamente. No, prima del suo partito addirittura uno sguardo a centrodestra. Ma lei, se vede quello che succede nel centrodestra, non gongola un po', cioè come dire, va, mi stanno proprio o me o la Raggi a questo punto, mi stanno agevolando? Ma guardi, io le devo dire la verità, vedendo quello che accade nel centro-destra, nel centro, anzi, e a sinistra, perché sappiamo da parte dall'altra, io spererei soltanto che la smettesse di litigare, che si potesse concentrare su Roma. Basta programma. Questo Giachetti comincia con gli obiettivi importanti. No, le dico che purtroppo c'è un vezzo e scaricare sempre anche nelle competizioni romane o locali, diciamo, i temi del dibattito nazionale, per quale le posso garantire, avendo girato molto la città in questi giorni, davvero importa molto poco alle persone che vivono concretamente i problemi. Cioè, a me piacerebbe sapere cosa ne pensa la Meloni del fatto che io voglio tenere aperte le scuole il pomeriggio dopo le lezioni normali, per esempio come momento di aggregazione, cosa ne pensa la Raggi del fatto che io voglio puntare sulle corsie preferenziali videosorvegliate. Potrei continuare, cioè mi interesserebbe, e credo soprattutto interesserebbe molto di più ai romani discutere di cose concrete. Noi volevamo partire proprio da una cosa che tocca oggi i romani, ma un po' tutta Italia, perché oggi c'è lo sciopero del trasporto pubblico locale, ma lei lo sa che a Roma c'è da anni un moltiplicarsi, un venerdì sì, un venerdì no, degli sciopero nei trasporti pubblico locale. E allora chiedo al sindaco, lei ha detto, notavamo prima, che uno dei suoi impegni è quello di dire, obiettivo, cari romani, regalarvi, come mezz'ora, dice, mezz'ora di tempo al giorno. Mezz'ora di tempo al giorno in più, senza bloccarmi nel traffico. Come si fa? Appunto, questo non è legato agli scioperi, perché gli scioperi spesso e volentieri poi sono anche però si aderisce a quelli nazionali, poi c'è il doppio, ce ne sono alcuni locali. Ma guardi, il tema ovviamente è un tema complesso, è un obiettivo da raggiungere che non riguarda soltanto il trasporto, però noi dobbiamo sapere che a Roma un cittadino trascorre, chi ci va, io uso il motorino, però chi ci va, lo dicono tutte le statistiche, sta un'ora e mezza sui mezzi di trasporto al netto delle attese. Ora, è del tutto evidente che questo è un tempo che deve essere, su questo deve essere recuperato. Poi tralasciamo le file, tralasciamo la burocrazia, tralasciamo tutto. Io penso che l'obiettivo di consegnare mezz'ora ai romani in più al giorno non sia un obiettivo realizzabile, e anche senza fare rivoluzioni copernicane. Io una proposta che ho fatto, per esempio, è quella di iniziare a fare su tratte importanti che hanno una particolare pressione di persone sugli autobus, di iniziare a fare delle corsie preferenziali videosorvegliate e protette, in maniera che quello che purtroppo accade in altre corsie preferenziali, dove ci stanno le corsie preferenziali ma lo sono soltanto di facciata, sia invece possibile realizzarlo. E ovviamente è una sperimentazione che, se funziona come credo funziona, deve mano a mano estendersi a tutte le corsie preferenziali. Sì. Già quello sicuramente fa guadagnare decine di un po' di mobilità. Senta, invece siamo molto preoccupati, noi lo raccontiamo con Oscar Giannino, quello che ha fatto il presidente anticorruzione Cantone, no? Sì. Come, se lei diventasse sindaco, come si può rompere quella continuità di appalti irregolari che Cantone ha certificato in questi anni? Anche perché qui ci sono poi le due cartelline finali, 18 punti precisi, ognuno di una riga e mezza. Secondo me un candidato sindaco dovrebbe dire, per ognuno di questi 18 punti i romani sappiano che uno, due, io metto questo limite al di sotto la quale non c'è se non la gara, e così via. Ci dica una cosa concreta che farà. Guardi, allora, innanzitutto diciamo che il tema della corruzione ovviamente riguarda anche l'amministrazione, la sua organizzazione, ora ci vengo, riguarda anche un problema culturale di rapporto tra i cittadini, l'amministrazione, gli imprenditori, cioè è una questione complessa che ovviamente va guardata a 360 gradi. Per quanto riguarda l'amministrazione, io ho già detto che noi dobbiamo inevitabilmente pensare a una centrale di committenza che in qualche modo sostituisca le decine di stazioni di appalti capitoline. E ovviamente bisogna ragionare su, come dire, una programmazione minuziosa degli interventi che in qualche modo riduca all'osso l'emergenza e le procedure in deroga, che come lei sa perfettamente, come mette in evidenza Cantone, sono un problema e sono stato un problema non da poco. Poi c'è il problema dei controlli, questo voglio dire è un altro dei problemi che è emerso, e guardi, riguarda dove si sono manifestati i problemi di corruzione, ma poi ci sono tante altre occasioni nelle quali non emergono problemi di corruzione, ma rimane il fatto che la totale assenza di capacità di controllo dell'amministrazione comunale, se non porta corruzione, spesso e volentieri porta sperpero, porta... Le faccio un'altra domanda concreta, come si capisce dopo anni di indagini? A Roma ci sono, cioè ogni dipartimento ha una sua piattaforma su cui si gestisce le gare, no? E ogni responsabile di gara del procedimento è lui il responsabile di quello che fa. Allora, la domanda che le faccio è: lei si mette in squadra solo politici del suo partito e degli altri movimenti politici del centro-sinistra? Non mi faccio questa domanda. Oppure c'è bisogno di un super assessore tecnico, cioè di uno che deve sapere il diritto amministrativo sulla punta delle dita, che possa fare in piccolo o in grande, insieme al sindaco, se lei vince, quello che Tronca fa, che si vede come in poche settimane accelera tutto, perché altrimenti l'assessore politico di un'altra corrente, un altro partito, dice no, tu non puoi smontare la mia banca dati, tu non mi puoi levare. A Roma è anche un po' questo il problema, o no? Assolutamente, le vorrei dire, io per natura non sono abituato che ci sia uno che salva tutti, che sia Superman e risolve i problemi, quindi la mia giunta sarà una giunta di persone capaci, di persone per bene e di persone che ovviamente staranno ventre a terra a lavorare per l'amministrazione. Ovviamente per quanto riguarda questo settore bisogna dare atto che per esempio l'assessore Sabella nell'ultimo periodo della consigliatura Marino ha messo in campo una serie di iniziative, una delibera in modo particolare che lo stesso Cantone ha riconosciuto essere stata una delibera che sicuramente ha negli ultimi è una risorsa reimpiegabile, sa bene. Esatto, se lo riprenderebbe. Guardi, io non mi preoccupo delle persone, mi preoccupo Sabella, io gli ho chiesto di darmi una mano per studiare procedure, appunto, soprattutto in relazione a queste questioni, e lui si è dichiarato disponibile, io ne sono orgoglioso. Poi il tema dei destini personali. Quindi può tornare, noi... può tornare. Non si faccia il titolo, io sto semplicemente dicendo che sono molto contento che lui, come altri, collabora, sì, esatto, se lo mette a disposizione per fare in modo che nel momento in cui noi dovessimo vincere le elezioni, il giorno dopo sappiamo già dove mettere le mani. E quando lei dice giustamente in tasca i mille no, scherzo, i mille rivoli, è chiaro che uno dei temi, che è quello della centrale unica di committenza, è sicuramente uno degli elementi su cui ho lavorato e che penso sicuramente abbiamo 100 banche dati diverse. Per chiudere, comunque necessita l'amministrazione comunale, io sento dire licenziamo i dipendenti, però non sono troppi, non sono un po' troppi, 60. Ma guardi, in base alla pianta organica sono addirittura pochi, il problema è che sono mal utilizzati e questa non è una responsabilità dei dipendenti. Oppure che hanno anche 20% di assenteismo, 22%. Non è solo assenteismo, bisogna essere corretti, perché in quei dati ci sono anche le ferie, le malattie, eccetera. Non riguarda tutti, e io sono contrario a dire che se un politico ruba tutti i politici sono ladri, sta parlando di 25.000. Allora cambiamo secondo capitolo, vi faccio due esempi. Allora, lei si troverà con queste due delle tragedie, mi dispiace, non è un giudizio su chi ci lavora, però sono tragedie, perché sono 10 anni che Moribanca ogni anno nella graduatoria comparata delle municipalizzate di tutta Italia, delle controllate locali, c'è ai vertici di chi è più scassato, cioè più debito e più deficit accumulato e più ripiani da parte dell'azionista, si trova esattamente l'ATAC e l'AMA. Allora, lei si trova queste due robe qua, lei crede che i piani attuali con gli amministratori messi da giunta uscente siano gradualmente solo da accelerare, o non c'è bisogno di un ridisegno anche lì con qualche decisione più radicale? Allora, a mio avviso, innanzitutto, non solo è vero che sono soprattutto ATAC che ama, ma è più in generale il sistema delle amministrazioni a Roma che c'hanno pochi problemi, e quindi bisogna innanzitutto capire come riorganizzarle, come rassicurarle, e quindi vedere anche da quello, diciamo, che cosa si riesce anche in termini di risparmio. Ovviamente per l'ATAC e per l'AMA non c'è solo un problema di risparmio, c'è un problema anche di organizzazione del servizio. Allora, su questo io le devo dire che sia l'amministratore Fortini, e grazie, questo non lasci dire, anche alle decisioni che sono state prese dalla Giunta Marino insieme al Presidente della Regione Zingaretti, da quando si è deciso di chiudere Malagrotta, si è iniziato a fare un lavoro sulla differenziata, che comunque è un lavoro importante che va proseguito e che inevitabilmente implica e necessita anche una riorganizzazione anche della missione stessa di AMA, tenendo conto che uno dei problemi di sofferenza che i romani vivono più di tutti è quello che riguarda, diciamo, la raccolta dei rifiuti. Ma poi abbiamo un problema di città sporca, cioè l'AMA non è soltanto il problema dei rifiuti. Giacchetti, io ho come un'impressione, siccome la conosco e le voglio, sì, cioè ho una profonda stima per lei, per la sua storia politica, la radicale. No, ma ho un po' l'impressione che il partito l'abbia messo lì, Renzi in particolare, che lei non abbia dietro di sé una grande squadra. Cioè, infatti lei dà delle risposte che sono le sue intenzioni, che non volesse neanche tanto. Ma questo lasciamo perdere. Il problema è che il PD arriva a questo turno con disastro di fronte all'opinione pubblica romana, e a me sembra anche che le energie intellettuali, tecniche, eccetera, che hanno innervato per decenni la città e le amministrazioni pubbliche e ciascuna di queste aziende che abbiamo citato, ecco, siano come renitenti e scomparse, e che la lasciano un po' priva di cose concrete, di alimentazioni di idee. Lei è in grado di produrle, però il PD arriva a questa elezione un po' così, avendo dietro il rapporto Barca sul partito delle sezioni. Posso chiederle, va bene, le hanno chiesto questo sacrificio, lei lo fa, ma il PD non deve pensare dentro di sé a rimobilitare gente che dopo decenni quella vecchia non va più bene e quella nuova non c'è ancora? Allora, innanzitutto vorrei chiarire una volta per tutte, non sarà una volta per tutte, che proprio perché lei mi conosce, forse qualche ascoltatore mi conosce, io non avrei mai nella mia vita accettato una sfida così difficile, così impegnativa, perché me lo chiede qualcuno. Io ho fatto tante cose nella mia vita perché ho deciso di farle e perché ritenevo fosse doveroso farle. In questo caso l'ho fatta perché mi sono reso conto delle condizioni in cui stava Roma, che nessuno si affacciava, diciamo, a mettere una disponibilità per governarla e per prendere in mano la situazione, che era complicata, e ho pensato che dopo tanti anni nei quali io dalla politica ho avuto tanto, pur avere dato tanto, era il momento in cui io mettessi qualcosa di mio per cercare di dare un gesto di amore per la mia città. E io sono convintissimo di questo, mi dispiace se ogni tanto qualcuno, se poi il fatto che che io, diciamo, non dia risposte roboanti, perché sono consapevole della complessità dei problemi e sono consapevole che la gente non ne può più di sentire parole semplici, di soluzioni future, prossime, dicendo, quando poi il giorno dopo tutto viene disatteso. Io cerco di essere il più possibile realista, razionale e di parlare alla gente con le parole della verità. Detto questo, è del tutto evidente che io so quanto è complicata questa vicenda e so quanto io mi porti dietro il peso anche dei nostri errori. Sì. Ma io sono stato candidato per il centrosinistra, so perfettamente, ho detto chiaramente ai miei amici e compagni che se questa storia va avanti è chiaro che è una storia che cambia completamente col passato. Allora, e l'ho detto rispetto alle liste, l'ho detto rispetto a tante altre occasioni. Cioè, no, ma è chiaro, una rottura. No, una rottura è proprio un ribaltamento. Un ribaltamento. Diciamo. Abbiamo 30 secondi, purtroppo. Flash, ma se si candidasse Brai appoggiato da D'Alema, questo a lei dispiacerebbe? Cioè, potrebbe creare anche problemi al centro-sinistra? Guardi, io ho sempre pensato che Brai sarebbe stato utilissimo se si fosse candidato alle primarie. Lui ha detto a suo tempo che non lo faceva perché non voleva essere divisivo. Io ho una grandissima stima di Brai e penso che esattamente per questa ragione, d'altra parte l'ho anche detto, non sarà la persona che si presta a far sì che purtroppo la tradizione della sinistra italiana, che ogni tanto quando ha la possibilità di vincere fa di tutto per perdere, ecco, penso che non sia la Brai la persona che si presta a questo. E Marino invece? Perché c'è anche Ignazio Marino che... Guardi, Marino quando avrà deciso che cosa fare vedremo che cosa fa. Io francamente non posso continuare a guardare dallo specchietto retrovisore. Vedremo, lui dice che la città lo ama, lo ha amato per quello che ha fatto, saremo in campagna elettorale e verificheremo. Se effettivamente è così, ci misureremo anche sulle scelte. Ripeto, io poi riconosco alcune cose che Marino ha fatto positive, quindi non ho un problema di azio come certe volte sembra di vedere da lui, però ecco, mi lasci dire semplicemente che noi 6 mesi fa stavamo in una condizione nella quale il PD era dato per perso dentro Massa Capitale, stavamo con i sondaggi che a cui non credo molto, ma comunque al 16%. Adesso tutti gli indicatori dicono che la partita è contendibile. Dicono che lei sta verso il 23-24. Quasi alla pari. Cioè, i sondaggi dicono questo. Diciamo, Giachetti raggia al momento. L'effetto Giachetti c'è. In bocca al lupo, come facciamo a tutti, Roberto Giachetti, grazie, primarie di centrosinistra vinte, candidato sindaco del centrosinistra. Abbraccio Giachetti e soprattutto cari ascoltatori, buono sciopero oggi. Buono sciopero a tutti. Buon weekend, ciao.